Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Anestetico d'affetto, io avrò una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto. Più splendido e splendente che mai, qui accanto a me in studio, rettore, reduce. Ciao, da un tour. Reduce. Da un tour per i suoi 30 anni di carriera, 6 anni di distanza da figurine, 2 anni e mezzo da stralunata, un successo strepitoso. Adesso con un CD nuovo di pacca, 10 brani inediti dal titolo Caduta Massi. Intanto grazie per essere con me qua. Grazie per avermi invitato. È veramente un piacere. Senti, i titoli delle tue canzoni la dicono sempre lunga. Anche Caduta Massi, eh? Per me ci sono troppe S, per cui la pronuncerò poco. Che cosa sono questi massi e perché cadono? Possiamo schivarli? Perché cadono i valori, cadono i desideri, cadono gli ideali, cadono gli stimoli, cadono virtualmente e anche realmente. E beh, bisogna watch out, bisogna fare attenzione a dove cadono e cercare di tirare un po' su la questione sociale attuale, perché è il niente totale, il vuoto. Tutto è in caduta libera. Tutto in caduta libera. In caduta si vola. Sperando che si apra il paracadute prima o poi. Speriamo, ce l'auguriamo. Senti, rettore, tu sei una donna e un artista che ha vissuto in costante anticipo con i tempi. E in tempi non sospetti, in una tua canzone, proprio eri agli inizi, caro preside. Sì. Ecco, direi gli inizi. Inizi, la gavetta. In una tua canzone hai toccato il tema delle molestie sessuali sul lavoro. Anche qui, no? Nessuno ne parlava ancora. Secondo te c'è voluto più coraggio o è stato proprio frutto di una tua sensibilità, di una schiettezza? Era solamente una cronaca che mi dovevo vendicare di un preside ottuso. E l'unico mio modo di farlo è mettere in musica e cantare una mia contestazione verso una figura che esisteva, è tuttora vivente, è molto antipatica. E lui come l'ha presa? Lo sa. E ancora quando mi incontra per strada ha dei moti di grande antipatia. No, perché toccare in quei tempi un argomento così spinoso, che era un tabù, è stato sicuramente una scelta coraggiosa. Ma pensa che questo, stiamo parlando del 77, io avevo appena finito il liceo, e era più facile allora toccare dei temi spinosi, fare una sana contestazione, che non adesso. E qua ci riallacciamo un po' a Caduta Massi, no? Esatto. C'è una caduta. Beh, c'è un oscurantismo, un bigottismo, un perbenismo, non lo so. È fatiscente, puzza. Senti, torniamo al perbenismo. Prima di parlare di Caduta Massi, a proposito di perbenismo, Cobra, eh? Oh. Fu un caso musicale, siamo negli anni Ottanta. Vogliamo parlare di Lamette? E Lamette, ecco, ma sei sempre stata molto... Vogliamo parlare di Benvenuto? Vogliamo parlare dell'Onda del Mar? Sono tutti successi, sono tutti modi in cui tu... L'Onda del Mar è l'ultimo singolo. L'Onda del Mar ce lo teniamo qua perché è il presente, ma insomma c'è tutto un fil rouge, rettore che vive, si trasforma, pensa, racconta, stupisce. Ma io vivo sia Splendido che Cobra, e io non le vivo come my past, perché sono talmente attuali e vengono tuttora suonate in discoteca e tuttora molto amate dalle nuove generazioni, che sono in the now per me, non sono the past, absolutely. Tra l'altro i tuoi successi, Splendido Splendente, Cobra, proprio sono stati recentemente inserite tra le 50 canzonissime fenomeno nel programma programma di TV di Carlo Conti, quindi c'è una grande passione. Insomma, non solo, ma in Notte prima degli esami ce la mette, nel romanzo popolare c'è anche il romanzo popolare, cioè la mette nel nuovo Tutti pazzi per amore, hanno messo la mette con coreografia. Nel prossimo Tutti pazzi per amore c'è Cobra, cioè, ecco, ma secondo te più di così, più attuali di così, più rettore di così, rettore è sinonimo di attualità, quindi, no? Anzi, sì, ancora prima, un attimo prima. Un attimo prima per essere attuali adesso. Infatti molti dei tuoi successi hanno anticipato temi che poi sono diventati di grande attualità. Allora, per i miei ascoltatori, oggi 3 CD a disposizione. Arriveranno a casa 3 di voi che mi scriveranno in che cosa e quando hanno anticipato i tempi. Bisogna scrivere quindi a essere benessere@radio24.it, scrivete 3 CD saranno scelti e mandati a casa alle storie più interessanti che hanno anticipato i tempi. Senti, andiamo al presente. Caduta Massi, 10 canzoni tutte nuove, e a me incuriosisce molto capire qual è il filo rosso che unisce Rettore di Splendido Splendente con Rettore di Caduta Massi. Un po' più, un po' meno di ottimismo, uno sguardo disincantato verso la realtà, maturità. La maturità non la vogliamo. Io la fuggo con... se io diventassi una posata, una moderata, una che pensa prima di dire delle cose, un po' più ipocrita, beh, non sarei io. Beh, anche se uno pensa, tu pensi, tu adesso dici così, ma tu alle cose pensi, si vede dal testo delle tue canzoni. Sì, cioè, certo, non è che uno che pensa è ipocrita. Dici quello che pensi, è diverso. Quello che penso, però riflettendoci sopra. Sì, certo. Certo, perché sennò i messaggi che arrivano dalle tue canzoni non durerebbero così negli anni, non farebbero così scuola, epoca. Però ci rifletto poco, cerco subito di buttare di getto tutto quello che mi viene in testa. Quando è che scrivi tu? Quasi sempre, in ogni caso quando c'ho bisogno di sfogarmi proprio anche fisicamente. Sentivo Roberto Cacciapaglia di recente ad una trasmissione di Oscar Giannino, è stato nostro ospite anche ad agosto per il nostro spazio di musicoterapia. Lui diceva che compone, le sue composizioni arrivano dal silenzio. Tu invece quando scrivi i testi delle tue canzoni, scrivo anche in aereo. Tu proprio le scrivi, sì, di pancia. Di pancia, assolutamente, anche in aereo, anche per strada, anche ai giardini, non lo so, al parco, quando porto fuori i cani. Come hai cani tu? Sì, ho 3 cani. Come sono, grandi e piccoli? Sono 2 border collie e un rough collie. Senti, ci sono tanti artisti che hanno con i loro compagni a 4 zampe un rapporto esclusivo, straordinario. Tu come sei con i tuoi cani? Per me sono parte di me stessa, come le mie braccia, le mie mani, le mie gambe. E ho sempre avuto cani, chiaramente i cani vivono molto meno di noi, per cui qualcuno mi ha lasciato. Però c'è una bellissima favola, diciamo, leggenda, e io penso che sia invece verità. Dicono che i cani, quando se ne va, i cani o comunque gli animali d'affezione, anche il coniglietto, il criceto o il coccodrillo, perché a me piacciono tutti gli animali, e ti aspettano perché sono capaci di un grandissimo amore, e quando vanno di là ti aspettano per accompagnarti dal padrone supremo. Questa è una e loro ti fanno una bella raccomandazione. Dici? Sì. Bene, senti, io... Loro sono l'ombelico che abbiamo noi con l'universo. Senti, tu sei molto attenta anche all'ambiente, vero? Sì. Nel tuo quotidiano quali sono le cose che fai per salvare un po' l'ambiente, almeno quello che ti circonda? Guarda, io dal 1993 Castelfranco Veneto è stata la prima cittadina presa come simbolo? Per sperimentare la raccolta differenziata. Abbiamo vinto. Dai! Sì. Beh, questo è un altro... E da lì è cominciata la raccolta differenziata. Vedi, sempre un po' avanti, sempre... Ma non è merito mio, certo. Cioè, è merito anche di tutti i castellani e... Tu, oggi, del sindaco che c'era allora. Prima di entrare in studio i ragazzi sono venuti a chiederti un autografo e due di questi proprio veneto, siamo veneti. Eh certo, uno di Padova e di Verona. L'appartenenza. Senti, quello che può essere considerato come un tuo tratto distintivo è l'originalità. No, perché tu passi per un artista originale nel senso pieno del termine. Ma tutti gli artisti sono originali. Non tutti. Ma un artista, se è un artista è originale, se è un artista però è noioso, è una persona noiosa, non è un artista. Quindi gli artisti hanno sempre questa marcia in più. Direi di sì. Tu stai dicendo la verità? Sì. Va bene. Senti, a proposito di originalità, gli adolescenti la cercano, la vogliono e tu proprio... Cioè è il loro diritto non averla. Non voglio pensare a tua mamma alle prese con te. Tra l'altro tua mamma grandissima attrice. Eravamo due antagoniste, due rivali, certo. Però eravamo anche amiche. Sì, però voglio e dire, siamo tuttora amiche. Ha avuto del bel filo da torcere con te. Sì, infatti io andavo e venivo dai collegi. Per cui... Senti, tu proprio all'adolescenza e alla ricerca di unicità che chiedono gli adolescenti hai dedicato una canzone del tuo nuovo album che a me è piaciuta in modo particolare. E vai. Hai la vita davanti, ma non canti perché adolescente mi ricordo tutti contro di me, quanti brufoli in faccia e la scuola mi schiaccia. Adolescente forever. Adolescenti di ieri e di oggi sempre adolescenti o tu leggi un'adolescenza diversa rispetto a quella che hai conosciuto tu? E ma hai vissuto sulla tua pelle. L'adolescenza è un periodo molto difficile. Te lo ricordi? Caspita. Le prime mestruazioni sono difficili, i brufoli in faccia sono difficili, è difficile comunicare perché vivi in un mondo tutto tuo, ti vedi troppo grassa. Non ti accetti, non accetti il tuo aspetto, vedi sempre che gli altri sono migliori. È un momento di grande trasformazione. Di ricerca, per cui vanno assolutamente aiutati e promossi gli adolescenti. Non vanno castigati gli adolescenti, vanno accompagnati, inviati. Sì. Bisogna coltivarli e sorreggerli, perché è un po'... Cavoli! Senti, c'è un... Anche perché da lì, poi dopo, nella vita, quando tu smetti di essere adolescente, lì stai seminando. Come un contadino quando c'ha una pianticella, se vedi che sta crescendo un po' storta, gli metti un bastone per farla crescere dritta. E l'adolescente, se non gli metti quel bastone... Si perde. Senti, tante disgrazie della nostra società sono dovute alla distrazione dei grandi nei confronti dei giovani. Noi sì, ma abbiamo spesso parlato con i nostri ascoltatori dello strano e difficile rapporto, a volte faticoso, che abbiamo con i nostri figli, anche con i figli degli altri, no? Perché io ho sposato il concetto di genitorialità sociale, nel senso proprio di allargare, far crescere questo patrimonio che è quello che, no? è il nostro futuro, certo. Perché noi siamo degli diversamente adolescenti, perché una parte di adolescente rimane in noi, in te anche, immagino grande, e poi a poco, anni dopo anni, si diventa diversamente giovani, un po' anziani. Ecco, arrivo con... Ed è una grave malattia che colpisce però anche i giovani, Sì, perché ci sono dei giovani che tu dici nati già vecchi. Che nascono vecchi e poi tu accendi la radio, accendi la televisione e che cosa ti senti dire? Che l'Italia è un paese per vecchi. Che cosa può pensare uno che ha 16 anni? Ma io penso che si riesca anche ad invecchiare bene, ci sono, noi lo insegniamo ogni giorno anche attraverso i consigli dei nostri esperti sul nostro Daily Lab. Ma infatti io sono felice che ho sentito l'estate un'onda breve, dico che tutte le mie rughe le navigherò. Perché sono importanti le rughe, raccontano. Assolutamente, è un traguardo, la vecchiaia o comunque non la maturità, ma la vecchiaia, l'anzianità è un traguardo, l'età è un traguardo, non è un limite. Certo. Se poi vieni colpito da un ictus è una cosa diversa. No, a essere in salute. Io esatto. Vorrei proprio sentire, tu alla vecchiaia hai dedicato un brano. Lo sì. Ascoltiamo perché ci dà degli spunti. La vecchiaia è una grave malattia che colpisce anche i giovani. No! Sì? Ma noi che siamo gli eclettici abbiamo fiato da vendere, per cui dobbiamo difenderci. Noi sì che siamo nevrotici, attenti, franchi e lucidi, dobbiamo solo difenderci. Rettore, quindi la vecchiaia non è questione di anni, la vecchiaia che tu canti nel tuo nuovo CD Caduta Massi è proprio una vecchiaia, cioè di una mancanza di vitalità, idee, pensieri, esatto. Voglia di fare, costruire. La pigrizia è vecchiaia. Che cosa fai per evitare questo pericolo tu? Sono eternamente stressata. È questo che ti tiene sempre in... Sì, sono ansiosa, eternamente stressata, panicosa, per cui... Questo ti dà quell'energia per affrontare la vita di petto? E lo devi sapere perché anche tu mi sa che sei come me. Sì, abbiamo... Beh, per me mi fai un grande complimento, e avere un briciolo di rettore è garanzia. Noi abbiamo ancora un minutino di tempo, ma parliamo invece degli anni... degli anni vissuti bene, con vitalità, però insomma gli ci anni sono pesano... anche degli anni che magari non vivi con vitalità perché proprio te lo impediscono. Beh, perché... certo, togliamo i casi perché ci sono a tutti, cioè, ci vuole fortuna anche in questo, Sì, fortuna però anche cura, voglia di prendersi cura di sé. Tu cosa fai ogni giorno per te? Una cosa piccola che ti regali. Una cosa piccola, la palestra intanto la faccio. Poi sono diventata istruttore cinofilo perché avevo un cane difficile e sono andata a scuola e ho preso poi il brevetto per non per cani difficili, ma per cani con disturbi comportamentali, l'obbedienza, sì. Portare il cane al guinzaglio, che non è una cosa proprio semplice quando il cane tira, il fius, il seduto. Faccio l'agility, che è una cosa, che è uno sport meraviglioso perché è uno sport che puoi fare da quando hai 5 anni fino a quando ce n'hai 80, 90 o 102, tanto senza limiti. Infatti è uno sport per tutti. E dove conduci il cane in un percorso ad ostacoli. E questo ti scarica e nello stesso tempo non solo, ma ti fa lavorare anche il cervello perché tutte le volte i circuiti cambiano. Ci sono i pivot, gli auti, zic, zac. Quindi è una cosa che tu consigli. È una cosa che io consiglio anche perché mantiene vivo non solo il fisico ma anche il cervello. Allora abbiamo carpito un consiglio al rettore, ma voi potete ogni giorno avere dei consigli per il vostro benessere. Basta che voi facciate un saltino al nostro Daily Lab. Io lo chiamo il laboratorio, se volete, l'officina del nostro benessere. Abbiamo incaricato i nostri esperti a regalarci ogni giorno un consiglio diverso, un consiglio che possiamo seguire molto semplicemente e che ci aiuta in qualche modo a prenderci cura di noi, a stare bene o ancora a stare meglio. Basta andare sul sito www.radio24.it. Essere e benessere. L'onda del mare che viene e va, nel suo venire scalderà, si sa, e fatalmente cambierà. Del Mar, il singolo che ha anticipato, lanciato, qual è il termine corretto? Che ha anticipato l'uscita di Caduta Massi. Un brano che a me è piaciuto molto per due cose, perché io adoro il mare, E anch'io. Ecco, e il mare rimanda subito ad un'idea di benessere, la talassoterapia. Talassoterapia, grandiosa. Che... un aerosol di iodio. Fantastico. E poi perché parli di questo uomo, no? Dolce senza tempo. Ma... C'è. Nella mia vita c'è. Io in questo credo di essere antipatica a un po' di persone perché sono stata fortunata. Mi ritengo una moglie fortunata. Ma questo è bello. E questo è molto bello, soprattutto secondo me, rendersene conto, non darle per scontato. Ne parlavo con Gianna Schelotto, no? Tra l'altro scrittrice, oltre che psicoterapeuta, che io adoro, mi piacciono molto i suoi libri, ne abbiamo parlato proprio di recente con questo libro che non so se hai letto, Viverti accanto e non sapere chi sei, in cui diceva che molto spesso diamo per scontata l'altra persona. Invece il fatto che tu mi dica io sono fortunata perché ho incontrato e... hai avuto anche il coraggio di investire in una storia, perché questo è un po', no? Certo, ho avuto anche il coraggio di sposarmi quando, cioè, fino a poco prima, perché io sono sposata da 5 anni e mezzo, e prima dicevo che quando mi chiedevano cosa pensi del matrimonio gay, io dicevo, ma figuriamoci, io sono contraria anche al matrimonio. E invece? E invece poi... Com'è andata? Non lo so, forse una rivoluzione... Forse io non so chi sono, forse che io non so chi sono cambiata. Io. No, forse mi rendo conto che anch'io non so chi sono fino in fondo. Ti sei innamorata di lui, che cos'è che ti ha fatto innamorare? No, beh, ero già innamorata, già vivevo con lui da 28 anni, per cui... Però che cosa ti ha fatto fare questo passo? E lo consiglieresti? Sì. Però quando si è ben sicuri, perché quando io mi sono sposata con Claudio, molte mie coetanee... vivevano il martirio del divorzio, della separazione, della divisione dei figli, no? È mio, quello è mio, questo è tuo. E io invece, anche dei cani, eh? Anche negli animali, poi cioè, è assurda questa cosa. Sì, proprio per dire, proprio brutta. Per dire che, cioè, no? Sì, cioè, per cui anche del tavolo della cucina. Esatto, è un passo il matrimonio che bisogna fare molto consapevolmente. Bisogna fare un bel rodaggio prima. Sì, non è sempre possibile. Non è sempre possibile, no. E se tu dovessi dare quindi una ricetta per un matrimonio fortunato, sereno, tu dici bisogna fare un buon rodaggio, sì, va bene, quando è possibile. Bisogna fare un buon rodaggio, bisogna conoscere altre persone. Un po' di esperienze precedenti, sì, esatto, che non guastano. Che non guastano, fare dei paragoni poi, perché... noi siamo due donne, ci conosciamo, però l'uomo è un universo sconosciuto fino a che non lo frequenti di giorno in giorno. Senti, ritorniamo ai riti di rettore, no? Tu sei... io sono piena di riti. Mattina, sera, cioè, sono piena di riti. Suggeriscici solo quelli proprio per il nostro benessere, dato che siamo in una trasmissione in cui proviamo, sperimentiamo sempre nuovi modi per stare bene. Guarda, quello che io consiglio a tutte le donne, sì, è la bellezza principale ci viene dall'igiene. In che senso? Dall'igiene fisico proprio, dalla pulizia. Se una ha una bella pelle, ha un bel corpo, ha una disciplina alimentare. Pulizia è intesa come cura di sé. Cura di sé. Io detesto le donne che vanno a letto con il trucco. È una cosa... Non si può fare. Non si può fare. E poi? La pelle va pulita, va idratata, va nutrita e va lavata. E poi una dieta che tu segui, io so che tu sei molto attenta a quello che mangi, non nel senso dell'esclusione, non nella dieta. Delle nel volte senso... mangio anch'io le porcherie, poi dopo il giorno dopo vedo di rimediare. Io sono una grande amante del riso, dello yogurt. Sì, ma insomma, eppure poi, la cucina nostra è così ricca, anche di abbinamenti, pasta, legumi, e insomma, infatti, poi adesso sboccia, no? L'estate, per cui possiamo portare mangiate di verdure, attività fisica, carotate. Così rimaniamo splendidi splendenti. Esatto. Che poi, a proposito di splendido splendente, perché sentirsi bene vuol dirsi sentire brillare un po', no? Senti, a proposito di splendido splendente, molti l'associano alla cosa, alla chirurgia, ma non è solo. È riduttivo dire che splendido splendente è una mia creatura, per cui è chiaro che dopo tanti anni vorrei che si capisse com'è splendido splendente, quella di dell'adolescente che non si accetta, che si vede grasso, che si vede con il naso storto, che non si sente mai a suo agio, oppure che non accetta la sua sessualità, che non accetta di essere maschio oppure di essere femmina. Il cambiamento, voler cambiare a tutti i costi, questo è... Siamo quasi in chiusura, ma io vorrei che tu ci dedicassi un po' agli ascoltatori di Essere Benessere una canzone, un brano del tuo ultimo CD. Ecco, perché io non credo nella morte. Non ho paura della morte, ho paura delle malattie invalidanti, non ho paura della vecchiaia, però credo che noi, questo sia una tappa del nostro percorso nell'universo. Quindi questa è quella che ci dedichi oggi. Se morirò. E non morirò. Uno per Caronte, uno per Dante, l'altro per la messa, con i miei antenati pronti a farmi festa. Con i miei antenati pronti a farmi festa. Se morirò, morirò veramente. Farò un salto mortale e non sentirò male. Rettore, torniamo subito dopo le informazioni sul traffico, perché questa parte di rettore mi intriga molto. A tra poco. Essere e benessere. Eccoci, ma certo che sei un po' strana, rettore. Io adesso sono mistica. Insomma, coraggiosa, un po' irriverente, anticipatrice, e neanche la morte ti fa paura? Beh no, non mi fa paura la morte, mi fa paura la malattia, quella sì mi fa paura, mi fa molto paura. Senti, perché ho avuto una madre che ha avuto un ictus, e per 7 anni ha avuto la parte destra paralizzata. Tra l'altro tua mamma era una grandissima attrice, un'attrice sì, goldoniana sì. Quindi senti, non voglio aprire questo capitolo, che è stato un capitolo doloroso della tua vita, sì. E che molti dei nostri ascoltatori magari stanno vivendo, perché avere un genitore, un parente, un amico, una persona cara colpito da una malattia importante, severa, è veramente uno sconquasso per il cuore, ti mette in moto tutta una serie di nuovi equilibri che richiedono grande sensibilità, grande coraggio e grande forza. Ma a proposito di malattie, tu sei una che si controlla, fai i test, ti fai gli esami. Io sono ipocondriaca. Sei una proprio che vai dal medico di frequente. No, tutti i giorni, però io sono ipocondriaca, per cui se ho qualche leggero disturbo telefono, mi faccio visitare, faccio le analisi. Bisogna farle. Ti controlli regolarmente, pressione, vista? No, io ce l'ho proprio la macchinetta dello sfigomanometro a casa. E te la controlli? Sì, sì. E quanto va la tua pressione? Beh, devo dire che me la controllo, perché io sono stata una sottotono per molti anni. Sì. Cioè, io avevo 60-90. Come me. Vedi che abbiamo delle cose... Però c'è stato, da 5 anni fa, a un certo punto mi sono sentita male, ho sentito i fischi alle orecchie, ho detto 150. Pum, perché capita? È un po', Poi alla fine mi hanno detto, no, e mi hanno dato delle gocce che si devono prendere al bisogno, perché poi io in effetti ho una pressione che fa 60, massimo 110. Quindi sì, assolutamente. Poi però quando sono, quando sono sotto stress, però mi va su da bazzi. Per si questo sta fai male. Anche meditazione, respirazione, yoga? Insomma, no, yoga non è ancora difficile lo yoga. Io sono troppo occidentale per fare lo yoga. Ma secondo il me mio yoga è lo piacere. Stretching. Beh, quello lo fai. Sì. Quello, infatti sei qua bella, splendida, splendente. Senti, non ci sarebbero un sacco di altre cose che vorrei chiederti, perché e mi dispiace che non ci sia qua Alberto, che è un tuo appassionato, ma io proprio un saluto ad Alberto, un allora. Saluto ad Alberto e anche i nostri ascoltatori che ti stanno seguendo, ci hai fatto sempre battere il cuore, continui a farlo, perché è un po' il tempo è sempre breve come l'estate, che è un'onda breve. Sono stata brava. Pensa. Bravissima, vai, guarda. Vai, con l'estate. Sei assunta. È un'onda breve, va là. Ma l'estate è un'onda breve, cambia il vento, scende giù la neve. Dai due dritte per sentire, capire fino in fondo questa canzone, quest'estate è un'onda breve? Beh, chiaramente parla della stagione della donna, della stagione calda della donna. È una donna che si lamenta perché guarda dormire il suo amore. E gli dice: mi stai facendo perdere il tempo, mi stai facendo perdere tempo, perché questo è il nostro tempo e tu stai dormendo. Questi uomini, non ci sono più gli uomini di una volta, oppure quelli pochi sono già, no, occupati, come dicono molte delle mie amiche, no? Dice: ecco, vedi, uno l'hai preso tu. Uno l'ho preso io. Oh, lo vedi? Vabbè, ce li siamo però ce ne sono tra gli ascoltatori ce di Essere sono. Benessere, degli ascoltatori che non starebbero lì a dormire mentre una donna è lì che li guarda, ma le parlerebbero, la coccolerebbero, la amerebbero, l'ascolterebbero. Ma un grande bacio, un grande abbraccio a tutti questi uomini che ascoltano Radio 24, ma proprio... Guarda, li voglio conoscere tutti. Oh, mamma mia! No, ma loro sicuramente ti conoscono, e io ti ringrazio per essere stata con noi, per averci così mostrato anche un po' un lato che si legge tra le tue, sicuramente nelle tue canzoni, ma che a me ha molto affascinato proprio conoscerlo, un po' sviscerarlo insieme a te. Grazie, rettore. Grazie a te. Ma di che segno sei tu? Gemelli. Che bello, bello. 17 giugno, bellissimo. Poi ci si crede, non ci si crede, no, non ci importa, credo, però sono dei però gemelli. Dicono che si è spostato l'asse terrestre, per cui i segni non sono più quelli. Beh, ma vabbè, questa è un'altra cosa. E poi sai, molti ascoltatori mi scriveranno, so già che arriverà qualcuno: ma come parlate di astrologia? Su Essere Benessere. Su Essere Benessere, che scandalo. Beh, comunque è uno scandalo, ma lo so, no. Qualcuno scriverà così, ma salutiamo anche loro. Io comunque sono dei gemelli e sono molto contenta di averti avuto qui con me. E io sono del Cancro, ascendente Bilancia, e sono molto contenta di aver potuto parlare con te. Buona giornata, rettore, buona giornata a voi che ci avete ascoltato. Appuntamento come sempre domani dopo il GR delle 11. Voilà. Essere e benessere.